Chiudi gli occhi tuoi nell'universo dove sei. Sopra il mare, solo stelle su di noi, respiri piano ma ti pesa l'anima. Questo posto è sempre uguale, è uguale a mille anni fa. Si sono perse via nel tempo, ma se ti sforzi puoi sentirle e pensa quanti sogni sono scritti e ancora vivi fra questi alberi e quanta vita che è trascorsa giorno dopo giorno e sempre chiusa. Gli occhi tuoi nell'universo dove sei, quell'inquietudine che hai si scioglierà se tu mi stringi adesso. Chiudi gli occhi tuoi nell'universo dove sei, quell'inquietudine che hai si scioglierà se tu mi stringi adesso. Già un po' più tranquilla, sarà che abbiamo bevuto un po', è nuotato fino all'isola mentre stavo lì a guardare, acceso un fuoco per scaldarti e tu mi chiedi cosa resta della tua storia in un quell'amore che tu gli hai regalato adesso è perso via nel vento e non esiste più, ed è stato vero forse solo un attimo. È strano accorgersi ma è presente solo in questo istante intorno. Chiudi gli occhi tuoi nell'universo dove sei, quell'inquietudine che hai si scioglierà se tu mi stringi adesso.